finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere .47 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale, e poi in dub da Terni, in dub pure da Roma. Basta cercare sulla frequenza la scritta Onda Rossa e come ci piace dire, il gioco è fatto. E col web www.ondarossa.info, il sito della radio, attraverso quindi Wide World Web www. Possibile ascoltare in ogni dove, con qualche secondino di differenza, ma insomma. Passa veramente poco da che le baggianate che diciamo arrivano alle vostre orecchie, quindi almeno da questo spazio serale di baggianate se ne dicono diverse. Novità negli studi della radio in questo 2025, è ritornata la luce che ci mancava già dalla scorsa puntata, per cui ci siamo messi nell'assetto autistico classico che vuole tutte. No, manca ancora una cosa, manca lo sgabello messo in una certa maniera. E poi si può cominciare appunto a mandare musica e baggianate. Importante, importante, importante in questi mesi in cui non abbiamo il radioabbonamento, in cui abbiamo passato un po' di tempo con i piedi sotto al tavolino, insomma, comunque la radio ha le bollette da pagare ugualmente, i trasmettitori da riparare e poi le nuove trasmissioni DAB da inaugurare, insomma, quindi un invito a tutte e tutti di sottoscrivere per la radio. Sempre il sito di riferimento www.fondarossa.info per coprire come sottoscrivere per la radio. Andate su Sostieni e lì ci sta scritto tutto. Noi vi ricordiamo il numero del conto corrente postale di Radio Onda Rossa, 618040.01, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via dei Volsci 530185, Roma Sallollo. Onda Rossa @ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione della radio. Le mail le leggiamo tutte, tutte. Utilizzate questa modalità che ormai ha tanti anni. Ci sono poi i social, sì, è vero. Però lì ci si perde qualcosa ogni tanto. E poi, se volete invece comunicare con lo spazio che state ascoltando e il baggianante, 25oclock@ondarossa.info, 25 scritta a numero, oclock@ondarossa.info. ancora 06 49 17 50, recapito telefonico storico di questa emittente nel 1977. E tanti e tante di voi non c'eravate nemmeno. E noi non è che capivamo moltissimo a quell'epoca. Però ricordiamo che già ascoltavamo la radio fin dagli esordi, dai primordi. E le radio di movimento, ancora prima Radio Città Futura. E domani avremo anche qualcosa che ricorderà quest'altra storica emittente romana, che il 9 di gennaio, diciamo, ricordiamo a Roma un brutto ricordo, un brutto episodio, con l'entrata dei fascisti durante una trasmissione di femministe a Radio Città Futura. Thank you. lavoro del 1998 per Cat Power, pseudonimo di Jean Marshall. Da qui abbiamo ascoltato Moonshiner. Iniziamo con una luna questa sera, uno scintillio di luna. Sapendo poi e sapendo anche voi che alla fine termineremo con un'altra luna, vi daremo i saluti con un'altra luna, la solita. Una di quelle voci che ci ha da subito ammaliato. Anzi, proprio perché era il 1995 quando uscì Dear Sir e poco tempo dopo avevamo proposto qua in radio quel lavoro. Lavoro peraltro prodotto per la Rant Record, che era un'etichetta discografica di Firenze. Un lavoro molto sporco, bellissimo a nostro avviso. Come anche questo lavoro è molto interessante, sempre dei primordi, qualche anno dopo, 1998, Moonpix. Poi durante così la evoluzione di Cat Power, qualche secondo noi caduta di stile, ammiccamento così al mainstream, ma poca roba insomma, e infine dischi molto interessanti fino ad oggi, quasi tutti o tutti in parte almeno. Il fantasma ci ha proposto una serie lunghissima, una playlist che secondo noi abbiamo pure un po' un'idea chi possa essere l'autore, l'artefice o uno degli autori e degli artefici. Vecchia conoscenza di qui, di 25 O'Clock, forse addirittura di Next Time, non ricordo se addirittura prima degli anni 2000 venne in trasmissione, comunque sicuramente di 25 O'Clock. Ma non sveliamo nulla, non manderemo per stasera nulla di quella playlist, perché uno è veramente enorme, ma la terremo da conto per andare a prelevare qua e là qualche cosa nelle il proseguo della stagione di Radiofonica. Insomma, ci siamo abbastanza accostati a quel tipo di sonorità stasera. Ci accosteremo a quel tipo di sonorità. In questo senso affronteremo un discorso sulla psichedelia, però più vicina, non tanto quella wah wah stoner, insomma, per capirci, ma inizialmente almeno quella più britannica, più legata invece alla ballata acida. E un inizio con tre proposte più o meno di T.I. Seagal. La prima appunto è T.I. Seagal dall'ultimo lavoro. Will you meet me down on a sandy beach? Che Three Bells. Poi una produzione di T.I. Seagal e White Fans, un disco superbo. Non c'è nulla di sbagliato, di pura psichedelia acida. E poi T.I. Seagal nella versione fuzz, quindi band vera e propria, in cui non fa più o meno tutto da solo, perché quello è che succede, a parte delle collaborazioni e degli aiuti suona veramente tutto. Dei suoi dischi sovra incisione, almeno che appunto non siano lavori registrati dal vivo. E quindi T.I. Seagal Watcher, poi T.I. Seagal White Fans, Other Way, Practice Dog e Do You Hear sono in realtà tre tracce, ma tutte brevissime, e poi Fans, Blind to View to Vines. 23:04, minuti primi, abbiamo cianciato abbastanza. T.I. Seagal, 25 o'clock, Radio Onda Rossa. 23-18, scorpacciata di T.I. Seagal e soci, in questo caso Fuzz. E quindi, per l'esattezza, Charles Motted e Chad Ubovic insieme a T.I. Seagal. Lavoro del 2020, terzo lavoro per Fuzz, che intitola il disco proprio come 1, 2, 3, cioè tre trattini romano, insomma, come volete. Andiamo nel deserto, almeno questo era il luogo di residenza quando pubblicava Esufiana Killer, Gonja Sufi. Origini messicane, padre afroamericano, capelloni lunghi tendente al dread, barba incolta. Anche qui pochi, 5 lavori pubblicati, 4 lavori pubblicati più un remix, ma un altro remix che era il remix di Esufiana Killer. Pochi lavori, ma tutti eccellenti, sonorità e capacità molto estroverse nell'andare a ricercare suoni insoliti. Da Sufi and the Killer, andiamo ad ascoltare Did, o come diavolo si dice, scritto Did. Poi N maiuscolo D. Con Gia Sufi, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. is a man somewhere who is closer to the truth. There is a man, there is a man. He may be to the east, starving for bread, but not the truth. He may be in the USA and knows that it's no use. He could be in England in a rock and roll group. But there is a man somewhere who is closer to the truth. He may be in Italy working in a field, or a medic in Vietnam helping bodies heal. He could be a Christian man preaching from a book. But there is a man somewhere who is closer to the truth. There is a man somewhere who is closer to it all. He's not looking outwards, he's looking to within. But there is a man somewhere closer than we've ever been. Minuti le frequenze di Radio Onda Rossa e abbiamo fatto un salto di 43 anni. Dal 2010 di Gonja Sufi e delle sue manipolazioni per andare a cercare alterazioni sonore, che comunque nascondono sotto. Tentativo di insolite insolite effetti sonori e vocali. Al 1967 dell'uscita di questi due album per Eric Eric Burdon e The Animals, tanto per capirci di quanto può essere all'avanguardia la musica di Eric Burdon, il genio di Eric Burdon, della sua poesia, del suo declamare. E di artefarlo, di manipolarlo con gli strumenti dell'epoca, che probabilmente erano semplicemente dei grossi Revox, cioè quei registratori a nastro. What have you seen of butterflies? Utilizzati per incidere le varie tracce e poi per montarle fisicamente, come si fa in un film, e ancora utilizzarli proprio per manipolare, quindi facendoli girare più o meno veloci, e poi una serie di effetti che probabilmente erano all'epoca, sì, probabilmente forse anche a transistori, ma anche valvolari. I am blind. Quindi per chi è interessato, vi chiediamo di approfondire l'ascolto di questi lavori. Window Change, che prende il nome dalla traccia Window Change, che però era un brano The Rolling Stones. E poi The Twine Shall Meet. Da cui abbiamo tratto questa Closer to the Truth. Eric Burdon and the Animals. Suoni che, appunto, lo ribadiamo, per quanto provengano dal 1967. Ci appaiono sempre modernissimi. Hollywood has created movies, but listen to the color of your dream. And no matter how... 0649175050, recapito telefonico di Radio Onda Rossa. Ah, Eric Burdon, classe 1941, eh. A quanto ci risulta è un nonnetto ancora arzillo di 83 anni. Dicevamo 23 e 33 minuti sulle frequenze di Radio Onda Rossa con colpo di tosse. No, 0649175050, recapito telefonico. www.ondarossa.info, il sito. All'ascolto di 25 o'clock. ancora troppo presto per ascoltare lavori usciti nel 2025. Usciranno mano a mano, li lasceremo maturare e poi con il dovuto ritardo metabolico che ci contraddistingue andremo a cercare poi fra le tante cose quello che c'è di interessante da proporvi. Per ora 2024, lavoro The Black Keys. Da cui abbiamo ascoltato I Forgot to Be Your Lords, senza finale, che è uscita così. Ho dimenticato di essere il tuo amante. E adesso andiamo nello spazio. E ci veniva pure un'idea, lo diciamo pure in onda. Che crediamo sia ora di dover dedicare un'altra puntata allo spazio. Ci abbiamo il nostro consulente, lo contatteremo, vedremo di costruire qualcosa. Ma questa è un'ideina così che ci veniva qualche ora fa e che riproponiamo, ma 100 idee forse riusciamo a realizzarne una, dai, le ammucchiamo lì. Andiamo nello spazio, dicevamo. Da una compilazione probabilmente dello stesso personaggio di cui parlavamo poc'anzi, che ha preparato la lista di cui parlavamo, di cui sopra. Per chi vuole capire, capisca. Dicevamo Jopia. This world was behind, watch it closely. E poi di seguito ve lo lasciamo indovinare. Radio Onda Rossa, 25 o'clock, Jopia. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences. Greater than man. Yet it's mortal. Watch closely by intelligence. This world is being the dark mystery of time I think. Program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio Thank you. eyes. No need to cast a vision. Let the forest blow, let the night stand. Alla mezzanotte, 25 o'clock ai controlli, Radio Onda Rossa, le frequenze dell'87.9 della modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio, in DAB da Terni e da pochi giorni anche è possibile ascoltare la radio in DAB da Roma. www.ondarossa.info invece è il sito, e da qui potete anche streamare il segnale di Radio Onda Rossa. E sotto la nostra voce, come anche poc'anzi, vanno in onda Io la tengo. Lavoro del 2022, come quasi tutti, pubblicato da Matador, forse i primissimi degli anni 80. Onestamente non so nemmeno se Matador c'era negli anni 80. Io la ricordo dagli anni 90, grande fucina di talenti, si direbbe. Però talenti non ci piace proprio. Talenti per noi un quartiere di Roma. Grande fucina di sperimentatori e di avanguardia, va così, va un po' meglio. Fra cui appunto Io la tengo. The Stupid World, e siamo perfettamente d'accordo. Terza traccia abbiamo ascoltato Tonight Episode, ma prima vi sarà rimasta la curiosità di quale versione di Interstellar Overdrive avete avuto il piacere di sentire, ma vi dico che non erano i Floyd ad averla eseguita, ma piuttosto una 23 anni dopo all'incirca. Lavoro questo, un tributo ai Pink Floyd del 2000, supponiamo, visto non c'è scritto, però tutte le tracce sono pubblicate nel 99 e nel 2000. Una raccolta di 21 cover di fino appunto all'anno 2000 per quanto riguarda i Floyd. Di cui abbiamo ascoltato Liquid Vision in Interstellar Overdrive, una pubblicazione su un progetto tedesco che vede la maggior parte delle band che suonano tedesche, un disco che avevamo un po' dimenticato, acquistato proprio all'epoca, intorno a cavallo del 2000. E leggiamo appunto le band che vengono quasi tutti dalla Germania, ce n'è poi una del Quebec, quindi in Canada, e poi ancora dalla Svezia, dall'Austria e dagli USA ce ne stanno alcune, insomma, quindi un lavoro che poi forse andremo a ripescare, dato che lo abbiamo riscovato. E mentre io la tengo, interrompe anche la quarta traccia che andava sotto la nostra voce, rimaniamo in quest'ambito, cioè quello del... della ballads artefatta statunitense, loro Juno 44, dico la prossima proposta. Iniziarono, diciamo, nell'ambito del post rock alla Slint. Ma poi partirono un po' per la tangente, andando a sperimentare e ricercare nuovi territori sonori. Poi ricicciarono dopo, parecchi anni dopo, 11 anni più o meno, dalla 11-12 anni dopo le loro ultime apparizioni, proponendo questo lavoro di rimaneggiamento della loro produzione. Abbiate pazienza, ma è scritto piccolissimo sul dorso della copertina, che è una copertina cartonata, quindi sottile, quindi abbiamo un po' di difficoltà a ricordarci come il titolo. Comunque, Revisionist Adaption and the Future. Histories in the Time of Love and Survival. Più o meno così. Dicevamo, lavoro di rimaneggiamento prodotto nel 2020, e devo dire, l'abbiamo trasmesso tanto e ne siamo rimasti assolutamente soddisfatti di questo adattamento in termini attuali delle produzioni dei Juno 44, di fra gli 11 e i 20 anni prima, insomma. Ci andiamo ad ascoltare l'Atlante del cuore, Cardiac Atlas. Juno 44, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. It's his destination. We'll be right back. inside your chest. He makes a fire here and warms the giant sky inside your chest. Yeah. 18 minuti dopo la mezzanotte, mentre scorrono le ultime note della terza traccia di Rapsodia Satanica, Giardini di Miro, traccia che appunto dal momento che terza prende il nome di Tre. E ci propongono per il di dare visibilità a questa iniziativa, che è una proiezione poi in realtà di un film pensando ad Anna, un documentario ibrido che ripercorre la storia delle più importanti rivolte carcerarie italiane dagli anni 70 attraverso la testimonianza del fiorentino Pasquale Abbadangelo, fu tra i fondatori dei NAP, Nuclei Armati Proletari, intrecciando interviste, ricostruzioni performative, materiale d'archivio e facendo interagire il protagonista con il giornalista Fulvio Bufi e con attori e attrici. Il film imbastisce un audace esperimento cinematografico su un momento cruciale della storia del nostro paese. Il protagonista è uno dei 13 detenuti politici di cui le BR chiesero la scarcerazione in cambio del rilascio di Aldo Moro, un uomo di salde convinzioni che non si è mai pentito né dissociato e il cui unico momento di fragilità è il ricordo della donna amata, compagna di una lotta e di una vita di lotta. Dalle murate alle carceri di massima sorveglianza in tutta Italia, un film dolorosamente catartico che porta ad immergersi sul ruolo della violenza politica nei propositi di cambiamento sociale. La proiezione di Pensando ad Anna sarà al Nuovo Cinema Aquila venerdì 17 gennaio alle ore 18:30. Dopo la proiezione seguirà un dibattito con Tommaso Armani, regista, e Fulvio Bufi, giornalista, insieme a Pasquale Abbadangelo. 25 minuti dopo la mezzanotte tagliamo un po' di traccia alla scaletta, poiché siamo andati veramente lunghi. Questa notte ci siamo persi in chiacchiere. Abbiamo appena finito di ascoltare Tortoise. E ancora la terza traccia proposta. Dal loro lavoro del 2004. L'avrei fatto più recente, eh? It's All Around You, la terza traccia, dicevamo, Crest. E quindi facciamo un balzo, perché abbiamo tagliato un po' di tappe di questa che sarebbe stata una lunghissima scaletta. Ci riserviamo comunque di non perdere il lavoro di assemblamento fatto e riproporla nelle prossime puntate. Già dalla prossima vediamo un po' che esce fuori. E andiamo a salutare Ciccia, a cui stiamo dando parecchie sole nell'ultimo periodo. Non ci stiamo tanto con la testa, Ciccio. Ma anzi, non lo salutiamo, Ciccio. Lo salutiamo invece tutti gli altri, perché sennò altrimenti perdiamo il lavoro collegiale fatto da palcoscenico a Leon ormai poco più di un anno fa. Quando proposero questo per pochi secondi, mai presentato qui a 25 o'clock, presentato in radio a Disaccordo. Il mio nome, una traccia credo che non abbiamo mai mandato, quindi da per pochi secondi, decima traccia per palcoscenico Neon. A Onda Rossa, 25 o'clock, il mio nome. Come pioggia, nascondati. we've been told what to do. I didn't realise either, mate, I'm with you. I've been following wide lines all my life. Touché turtle, jump the castle, avoid the disco dancers, no hassle. Doing beat like that with a kid at your mum's. Paramedics, you should have thought about that one. Heart stopper, boom, clear. What happened to Richard? All I can see is gear. Breathless, incinerate, processed cheese. Become what you ate, become what we are. A series one with dreams to reach a series four. Drive, drive, six packs, drive, drive. White teeth, Kit Kat, take the money and run. Join the elite, you sold yourself to no one. Pied Piper, whiskey nose, the Wonderwall fell down on you. A little ditty and it's all gone wrong. I don't expect the tool to sing along. A little ditty and it's all gone wrong. A little ditty. A little ditty. I ain't a threat, they leave me alone. Flat Cook Gamble, you know when I work there I got a bad feeling from the man. I can't work with someone like that again, Sam. A little D and it's all gone wrong. I don't expect the kid to sing along. That band from the 80s, that punk band, what are they called? The Queen's Park Rangers. Been around ages, you tall. We're all up in the top room of the pub, getting heavy with a past that didn't exist. You reshaped to get celeb mates. Shoreditch yarn in the have you been for a poop poop on, gnarly coat, death faces, death, death, death, nine to a cubicle, head squeezing, screwing up faces, last choke, push the wheels of the next big thing, you scratch my back, I don't scratch anything, apart from my nads, I Mick, I'm born to be bland, chopped up in black leather, flints, death, currywurst, smashed, and in everything. A little ditty and it's all gone wrong. I don't expect the tool to sing along. A little ditty and it's all gone wrong. A little ditty. A little ditty. A little ditty. A little ditty. I don't expect the tool to sing along. That was shit, that end bit, mate. That was fucking shit. 33 minuti da mezzanotte, dopo la mezzanotte. Sleaford Mods, ovviamente. Around the bloke's ass, he liked me cause I made some informed comment about the early history of his fucking country. Big mirror, lumps of drugs. A little ditty. Shit pieces of art, matter of fact statements about Harry's picking his kid. E poi andiamo velocemente, discendiamo verso la conclusione della puntata di questa notte di 25 o'clock. You're brave. You're brave. Yeah, and we all change. E un po' di tempo fa siamo andati a prendere un una cartata di dischi. Ve li abbiamo proposti più o meno tutti, ve ne mancano un paio, credo. Uno, forse qualcosa di più, sicuramente un paio di vinili li abbiamo già ascoltati. Uno ne manca ancora. Vabbè, cose di cui vi interessa poco poi tutto sommato. Diciamo, andando a capare nel mazzo, forse la cosa che più ci ha entusiasmato, quindi nelle ultime uscite del 2024, insomma più o meno gli ultimi annetti, un lavoro omaggio a Woody Guthrie. Per quanto riguarda Dropkick Murphys, anno 2023 uscito, anche se targato 2022. This Machine Kill Fascist. You're brave. Loro ci hanno aggiunto uno still. You're brave. Quindi suona This Machine Still This Fascist. Era la scritta che stava sulla chitarra di Woody Guthrie. E ci sarebbe sul personaggio da rivisitare, da riraccontare in questa epoca. Così viene descritto, magari un po' banalmente, come il l'inventore, il cantore della musica di protesta moderna statunitense, quindi che un grande girovago, insomma, che ha passato gran parte della sua vita andando a suonare in giro nelle bettole, nelle strade e, insomma, in ogni dove, e quindi conoscendo l'America più di ogni altro e sapendola descrivere al meglio più di ogni altro, ovviamente l'America dei diseredati, dei poveri, degli scioperanti, dei licenziati, eccetera. E anche in questo Sleep Mods comunque c'hanno un'assonanza con, se non altro, le tematiche, il modo di immergersi nella realtà per raccontarla. Appunto, Troppi Murphys dedicano un disco a Woody Guthrie e con un magheggio, con un marchingegno, con una roba. Woody Guthrie è morto nel 67. Adjust my tie, I hate this lie. The struggling words, swivel seven. Riescono a titolare l'ultima traccia. Pick your nose and do something else to, I just can't fucking believe it. Can't you like it? Dig a hole, a intitolare a lui, cioè dicendo fit Woody Guthrie, perché vanno a prendere una vecchia traccia, un vecchio sample di Woody Guthrie che canta e facendolo cantare con loro. Dig a hole, ultima traccia per This Machine Still Kill Fascist. Troppi Murphys. Swivel seven. Adjust my tie. I hate this lie. Adjust my tie. I hate this lie. What are you going to do? Declared war on Uncle Sammy. Bit off more than you can chew. Dig a hole, dig a hole. 48 minuti dopo la mezzanotte, quando va questa roba qui, vuol dire che stiamo ormai alla fine, dai, alla conclusione. E siccome non siamo stati capaci di dirlo in maniera corretta e manco scorretta in realtà nelle precedenti occasioni, lo facciamo dire a lei chi erano. Mut. Si pronuncia così, insomma. Mut. Ci siamo ascoltati Lost Whoop e andiamo a concludere, quindi. Consueto, ricordando che le programmazioni di Radio Onda Rossa in diretta per questo mercoledì barra giovedì notte giovedì notte finiscono ora. Vi lasciamo in compagnia della compagnia automatica Sonata con le sue selezioni musicali e alternate ai podcast, a quanto in archivio c'è della radio riguardo le ultime cose pubblicate anche sul sito della radio. E si riprenderà con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina. Fino intorno alle 10, quando si procederà con i nazionali preparati dalla radio, fino all'incirca alle 12.30, dalle 12.45 alle 14 la replica di Impatto, che va in onda anche nei supermercati. E poi dalle 14 alle 15 tutta Scena Cinema, dalle 15.30 alle 16.30 la replica di Disorder, dalle 17 alle 18 la Schiena del Sol. Poi la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa dalle 20 alle 21.30, Tabula Rasa, a seguire il nostro fagiolino con il Noctibus Panis e poi fino all'incirca alle 22.45 e poi dalle 23 in avanti Apostasia, i cuginetti del giovedì notte. Ricordiamo che è uscita la scarceranda già da un po', eh? Anzi, per dirvela proprio bene bene, sbrigatevi a prenderla, che gli anni scorsi poi a una certa è andata esaurita, eh? È andata sold out. Mamma mia. Sarà la generazione nostra, però insomma per me è sempre la lingua del padrone, eh? Sì, è facile comunicarci, è vero. Perché c'è e se parla con quella, è come tutti i linguaggi, servono per comunicare. Però sempre la lingua del padrone rimane. Il nostro saluto più importante va a tutti e tutte coloro che sono costretti alle condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti. A tutte e tutte coloro che sono soggetti e costretti a pene alternative e anche a quelli che attraverso decreti amministrativi, non cioè attraverso un giudizio del tribunale, sono costretti a risiedere nel luogo di residenza o di lavoro e a rientrare a casa, eccetera, eccetera, eccetera, DASPO e via dicendo. Noi, come anticipavamo già dall'inizio, ce ne andiamo sotto la luna comunista. Bella a tutte e a tutte. A risentirci a mercoledì prossimo. Dai! our dreams, our